8 e 21 minuti di mercoledì 4 novembre, care ascoltatrici e cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 mattino. In questa puntata parleremo delle elezioni americane, l'idea di sentire un po' ovviamente anche le vostre voci all'800 24 00 24, come la pensate su Donald Trump. Sappiamo che c'è uno zoccolo duro di trampiani anche tra i nostri ascoltatori, come lo vedete questo voto, mentre sta salendo sul palco Donald Trump proprio in questo esatto momento. Thank you very much, please sit. Thank you. This is without question the latest news conference I've ever had. Thank you. Scherza in apertura, aspettiamo un po' di sostanza politica, va. I want to thank the American people for their tremendous support. Millions and millions of people voted for us tonight. And a very sad group of people is trying to disenfranchise that group of people, and we won't stand for it. We will not stand for it. I want to thank the First Lady, my entire family, and Vice President Pence, Mrs. Allora, Pence. Allora, caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci qua. Eccoci buongiorno. Qua, eccoci qua. Io allora, per dare immediatezza ai miei interventi in questi ultimi giorni, sono andato a leggere i giornali in una fonderia, come avrete sentito, e quindi c'erano dei rumori di fondo, però oggi ero talmente emozionato per le elezioni americane che mi sono rinchiuso nel nostro studiolo di Radio 24, ma da domani torno nella fonderia. Va bene, così siamo tranquilli. Caro Paolo, vabbè, stiamo sentendo Donald Trump, forse possiamo sentire, caro Peter, un altro passaggio, sta parlando adesso. There's never been anything like it. To support our incredible movement, we won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. And e sta un po' celebrando quello che... La Florida è stata la grande sorpresa, sì, di questa elezione. E la grande sorpresa di stanotte è stata che Trump era più forte di quanto lo dessero i sondaggi e potrebbe ancora vincere le elezioni, ma come abbiamo detto ormai infinite volte, questa non è una partita che si gioca fra stanotte e stamattina, potrebbe durare fino alla fine della settimana perché c'è la questione controversa del voto per posta. E vorrei ricordare, per chiuderla lì, perché tanto non si può aggiungere delle cose alla maratona a cui io e te abbiamo partecipato tutta la notte, che nel 1876, nelle elezioni che videro contrapposto il repubblicano Ace al democratico Tilden, e i lavori per mettersi d'accordo durarono quattro mesi. Alla fine, per la cronaca, si misero d'accordo e vinse il repubblicano. Però non è la prima volta che c'è una controversia, noi ricordiamo quella di Bush e Al Gore, però ci sono nella storia americana delle grandi controversie. E poi il sistema regge nonostante queste controversie, perché tutti pensano: oddio, è finita. Sì. Chi ne esce un po' con le ossa rotte siamo noi giornalisti e i sondaggisti. Sì. Però ci siamo abituati perché siamo usciti, succede, con le ossa rotte. Succede ogni volta. Sì, sì, anche l'altra, sì, volta. Perché successe, proiettiamo, certo, i nostri desideri, esattamente, proiettiamo i nostri desideri su sondaggi e inchieste. Poi negli ultimi giorni l'avevamo registrato tremebondi, diciamo, ma potrebbe, tremebondi un po' scaramantici. Secondo me non si fanno così né i buoni sondaggi né i buoni articoli di giornale. Però cambiamo pagina, domani mattina ne parleremo meglio. Sì, sicuramente. Allora ti leggo questa battuta che mi è arrivata. Secondo il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le regioni rosse non potranno attaccare le regioni arancioni, le regioni verdi devono invece conquistare un terzo continente a scelta. Guarda che non è male. La suddivisione delle regioni in tre fasce è arrivato in questa notte il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un certo contrasto proprio con le regioni sulla modalità di applicazione, la scelta, la consultazione con le stesse regioni, che paiono un po' ondivaghe, Paolo, perché prima vogliono il potere, poi non lo vogliono, poi lo rivogliono, è un po' così. Ma si è capito, alle regioni piace il potere quando c'è da dire liberi tutti, apriamo i bar, apriamo i ristoranti. ma quando ci sono da decretare cose sgradevoli, tipo chiudiamo i bar, chiudiamo i ristoranti, chiudiamo tutto, allora non lo vogliono questo potere, anzi contrastano il potere centrale che dà queste raccomandazioni. Oggi mi ha fatto sorridere il titolo del Fatto Quotidiano, che le accusa regioni sediziose, potere di veto. E non è questione di regioni sediziose, il nostro è uno strano esercito dove comanda il generale e i colonnelli per alcune cose, il generale per altre. Forse sarebbe venuto il momento, in un momento di calma, subito dopo la pandemia, di stabilire chi comanda che, punto. E poi ne risponderà sia esso il governo, sia esso le regioni, che risponderanno al momento delle elezioni. Per adesso io suggerirei quello che già mi sembra stiano facendo, di affidarsi a dei parametri con numeri, in modo che anche i cittadini possano capire se i posti in terapia intensiva hanno raggiunto l'occupazione dei posti in terapia intensiva al 60%, si chiude, se no no. Quello che sicuramente è stato un po' sventato, ma anche questo l'abbiamo detto, è fare 4 decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in un mese, cioè una settimana, e dove non si faceva in tempo a verificare l'efficacia di questi decreti e già sì, se ne faceva un altro. E guarda che anche questa volta è un po' così, sì, perché sì, anche questa volta, non essendo un decreto finale, perché il decreto di lockdown aveva il vantaggio di essere conclusivo, poi si aspettava e si vedeva se la pandemia decresceva. Questo invece, se dovessimo continuare a avere occupazione di posti in terapia intensiva, perché questo è l'indice più importante più che i contagi, magari fra una settimana o 10 giorni ci troveremo al quinto DPCM. Se vuoi una prova che il manico non è ben saldo, è ieri l'ennesimo tilt del sito del Click Day, il bonus per la bici, è diventato un miraggio. In 700.000 sono rimasti ore, sì, in attesa per chiedere il contributo, l'ira su Poste e Sogei del ministro Costa, vabbè, sì, soliti scaricabarile, sì. Sì, ma è l'ennesima volta dall'inizio di questa pandemia che si dice il tal giorno scatteranno i bonus, le casse integrazione, così salta tutto, sì, per aria. Ci ricorda oggi Pierangelo Soldavini, lo leggeva in rassegna stampa sul Sole 24 Ore, ci ricordava che oggi c'era anche una sorta di Click Day per segnalare alla regione Lombardia i bambini sotto i 6 anni che hanno bisogno del vaccino antinfluenzale, come se la regione Lombardia non fosse in possesso di quei dati. È un po' paradossale, no? Questa cosa, come è funziona? È un po' molto molto paradossale, sì. Poi sempre per non lasciare appese le questioni, si è scoperto che l'attentatore di Vienna era un falso pentito, cioè era un combattente di origini albanesi, anzi di una zona della Macedonia, Kuitim, questo era il suo nome, che era stato già identificato, ciuffato, venne arrestato dopo che aveva tentato di andare a Kabul e poi in Siria, aveva fatto una cosa di rieducazione, si era pentito e poi è andato a fare l'attentato. Questo non è, sembra un dettaglio quasi ridicolo, però non è tanto ridicolo, è perché getta una luce sinistra, non su di noi, questa volta non stiamo parlando dell'Italia ma dell'Austria, sui sistemi di sorveglianza e di verifica, sì, su questi pentimenti. E anche se posso, Paolo, che ha delle, sì, perdonami, forse, sì, forse anche su questi programmi di deradicalizzazione che tra l'altro ci sono anche in Italia, esistono anche in Italia. Eh beh, sì, certo. E, sai, la deradicalizzazione è molto difficile. Anch'io provo a deradicalizzarti tutti i giorni, a dirti, e tu ricominci il giorno dopo a prendertela con questo e con quello. Così, sei incontrollabile. È così. Però, per dirti delle conseguenze politiche, ecco, te ne dico una. Oggi sul Corriere della Sera c'è una intervistona a Di Maio che dice fermiamo gli sbarchi, è un problema di sicurezza nazionale. Beh, vedi che ha una conseguenza forte, nel senso che quello che era un punto a cui erano arrivati a un compromesso, sembravano che stessero per raccogliere tutto nel governo i moniti di Papa Francesco, invece il ministro degli esteri ha ingranato la retromarcia. Quindi avrà delle conseguenze questa cosa. Poi ti leggo brevemente delle cose che mi hanno colpito. Vai, la condanna di Denis Verdini. Denis Verdini è stato condannato, è già in prigione, si è consegnato ieri sera, è stato condannato a una pena piuttosto alta, imprevista, perché ha il migliore avvocato italiano, Franco Coppi, che il giorno prima della condanna sembrava che dovessero fare ulteriori verifiche. I giornali cosiddetti giustizialisti, io non uso mai questa parola ma lo dico per semplificare, esultano. Qualche dubbio espresso da Mattia Feltri sulla prima pagina della Stampa, che ricorda che una volta lui fu mandato a fare un'inchiesta sul mostro di Firenze, su Pacciani, e le cose poi si risolsero in altro modo, e insomma fa piacere leggere anche qualcuno che invece di esultare. Sai, Verdini è il mostro perfetto, perché ha appoggiato nell'ordine Berlusconi, Giuliano Ferrara nell'epoca in cui non era un sostenitore del governo Conte ma era insomma una specie di teorico di Berlusconi, poi Renzi, e adesso con la figlia che si è fidanzata con Salvini, credo che ha fatto un mazzo di tutte le persone che sono antipatiche a una parte politica, per questo spiega l'esultanza per il suo arresto. Noi non esultiamo mai per nessun arresto. Poi c'è il Monsignor Viganò che spara a zero sulla lobby vaticana. Viganò, come sappiamo, è un nemico di Papa Francesco, però certo oggi ne dice il Monsignore, denuncia un'intervista sulla Verità, la rete di complicità e connivenze i cui membri sono virgolette scelti proprio in ragione della loro corruttibilità. Chi ha preso il posto di Becciu è più ricattabile del predecessore, ed elenca gli scandali sessuali in cui sarebbe coinvolto Peña Parra, che è questo prelato che ha preso, insomma, un'intervista destinata a far rumore. E consentimi di finire, oggi vado molto rapido perché non sto in fonderia, nella mia gioia, perché i Meridiani Mondadori, che è una collana prestigiosissima diretta fino a ieri da Renata Colorni, che mette insieme gli scritti dei più grandi scrittori, una collana fondata 51 anni fa nel 69, viene affidata al più grande scrittore italiano, uno dei più grandi scrittori italiani, Alessandro Piperno, giovane francesista. C'è un grande articolone sul Corriere della Sera, chi vuole ristorarsi dalle storie di Viganò, di Verdini, di Trump e compagnia cantante, può leggere un articolo di Ida Bozzi che spiega i nuovi destini dei Meridiani. Complimenti e auguri a Alessandro Piperno. Paolo, non so se sono stato... Perfetto, perfetto, e senza fonderia di sottofondo. Ci sentiamo domani mattina. Domani di nuovo fonderie, però, perché fonderie mi piace. Ma danno un'idea più ruspante. Che sei al lavoro, Esatto. Ciao Paolo, ciao. Ciao, ciao. Le 8, 38 minuti e 20 secondi. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, se volete le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp, l'800-24-0024 per intervenire in diretta, se volete. Parliamo un po' di elezioni americane, delle elezioni americane. Gli ultimi aggiornamenti ci dicono che uno degli scenari più preoccupanti si sta realizzando, con il presidente americano Donald Trump che è andato, nonostante ci siano alcuni stati ancora da conteggiare, è andato a dichiarare vittoria, accusare, parlando di frodi e di brogli, e annunciando che andranno alla Corte Suprema. Più preoccupanti, dico, perché vuol dire che chiarezza su questo risultato, su come effettivamente è andata, non ce l'avremo prima, non solo di alcuni giorni, e quindi prima che finisca il conteggio in Michigan, Wisconsin e Pennsylvania, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, forse addirittura venerdì, ma probabilmente dovremo aspettare una battaglia legale e chissà cos'altro. Di certo oggi è la giornata nella quale si conclude o il primo mandato o la presidenza di un uomo che ha rappresentato una cesura nella storia americana, senza ombra di dubbio, e forse anche su questo vale la pena riflettere. 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta. Lo facciamo con, se volete, la politica italiana, però è quasi più una chiacchierata che facciamo davvero, con Daniela Santanchè, senatrice di Fratelli d'Italia, trampiana d'acciaio. Santanchè, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Insomma, no, trampiana d'acciaio, io sono una patriota italiana, poi sì. Quindi voglio dire, tifo per l'Italia, ritengo che per gli Stati Uniti è meglio se vince Trump, ma anche per l'Italia. Sì. E Filippo Sensi, deputato del Partito Democratico, di mestiere fa lo spin doctor, molto si è occupato di elezioni americane anche. Sensi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Allora, Santanchè, come legge questo scenario di Corte Suprema, i rischi anche sono stati evocati, rischi di scontri di piazza, cioè, uno scenario un po' preoccupante, devo dire, il vero, almeno vista da questa posizione, non so come la legge lei. No, io ancora non la leggo, perché voglio dire, ancora non si sa, no? Sembra leggermente in avanti Trump, mancano ancora degli stati, mancano ancora, voglio dire, il conteggio di tantissime schede, per cui non sono così catastrofica, aspettiamo un attimo per capire, per vedere. Ecco, sarebbe brutto, voglio dire, non mi piacerebbe ci fossero degli scontri, delle polemiche, però i brogli esistono anche in Italia, voglio dire, non soltanto in America, no? Vi ricorderete le elezioni del 2006 in Italia, quindi voglio dire. Santanchè, ascolti, abbiamo un audio atroce suo, adesso vediamo un attimo se riusciamo a recuperarla decentemente. Intanto vorrei sentire Filippo Sensi, come legge lei, come leggiamo dall'Italia, modestamente dall'Italia, quello che sta succedendo dall'altra parte dell'oceano. Un po', ancora una volta, il grande tema, sondaggisti, giornalisti che sembrano aver fallito nelle previsioni, se vogliamo. E questo lo si vedrà alla fine, no? Se davvero dobbiamo aspettare ogni singolo voto, come ci dicono tutti quanti, aspettiamo anche per dare un assessment sui sondaggisti, sui pundits, cioè sui giornalisti, gli editorialisti che hanno parlato. È normale che una grande elezione sia accompagnata e preceduta da un sacco di rumore, da opinioni che sembrano scolpite nella pietra e che poi dopo si rivelano scritte nell'acqua. Non ne farei il centro della nostra analisi. La nostra analisi si deve basare sul fatto che è in corso ancora il conteggio dei voti, e che ne dica il presidente Trump, si finirà di contare i voti, si vedrà chi avrà vinto nei singoli stati e poi ci sarà eventualmente tempo per una battaglia legale che ovviamente lascerà il paese in bilico, come già successe nel 2020, e che ovviamente lascerà tutti quanti noi sospesi nell'attesa di sapere chi sarà il prossimo inquilino della Casa Bianca. Sì, ha detto 2020, immagino intendesse 2006, l'elezione di... intendevo il 2000 Gore Bush. Il 2000, chiedo perdono. Gore Bush con il riconteggio della Florida che finì con una differenza di 532 voti o 34 voti. La cifra era più o meno questa, e si concluse esattamente in questo modo. Chissà come andrà, per esempio, la Georgia, che in questo momento vedo molto vicina, che Trump ha già dato per sua, e però in realtà è piuttosto vicina, e come finirà con le altre, perché poi Trump ha detto Trump che le ha date un po' tutte per sue, no? Ha detto il Wisconsin abbiamo vinto, Michigan abbiamo vinto, Georgia abbiamo vinto, quindi insomma di fatto ha già deciso lui chi ha vinto, insomma, i voti degli americani. Però insomma, per fortuna è una democrazia, è una grande democrazia, e quindi si farà il conteggio, uscirà un vincitore che magari potrà essere lo stesso presidente Trump, io mi auguro ovviamente che sia Joe Biden, e poi dopo ci sarà tempo per i ricorsi, corsi e ricorsi, diciamo così. Santacchè, ma perché pensa che Trump sia faccia il bene del mondo e dell'Europa, evidentemente dell'Italia? Ma no, io penso che Trump prima del Covid abbia fatto bene, perché bastava vedere i dati economici dell'America per capirlo, perché l'America prima di questa pandemia mondiale stava andando benissimo. Penso che con Bush, con Obama ci siano state delle guerre, con Trump le guerre nel mondo non ci sono state. Penso a quello che ha fatto in Medio Oriente, penso a quello che ha fatto col Covid, non da un punto di vista sanitario, perché questo atteggiamento negazionista di Trump a me personalmente non è piaciuto, però i soldi che ha dato agli americani, noi qua parliamo di ristori e Trump ha dato degli indennizi che sono veramente pazzeschi, ha cercato di dare i soldi a tutti quanti. Io credo che Trump sia stata per l'America, ma lo dicono i dati, lasci stare il Covid, anche perché vede, queste sono le prime elezioni di un paese importante in tempo di Covid, che sono anche molto interessanti, perché io credo che l'America anticipa un po' sempre quello che poi succede, no? Sì. Anche in Italia e in altri paesi. Beh, ci sono state le nostre regionali, Santanchè, che comunque sì, no, sì, non è certo, chiaro, sto scherzando, no, la dimensione non è paragonabile. Voglio dire, le prime elezioni importanti, no? Quando avremo le politiche in Italia, che spero non avremo più il Covid, anzi spero di farlo al più presto, ma comunque se andiamo a scadenza naturale il Covid non c'è. No, è anche un elemento interessante capire i comportamenti degli americani, perché abbiamo avuto due campagne completamente diverse, no? Un Biden che era molto, come dire, sulla questione del Covid, giustamente ha preso un atteggiamento opposto rispetto a quello di Trump, e Trump che ha avuto un atteggiamento, diciamo, non dico proprio 100% negazionista, però molto vicino, molto vicino, oggetti, molto ecco, vicino, oggetti, molto vicino. Esatto, allegro da questo punto. Sì. Vorrei sentire qualche ascoltatore, poi voglio sentire anche Sensi sulla campagna elettorale, visto che di campagne elettorali si è occupato, su come l'hanno gestita i due. Maria da Milano, buongiorno. Prego. No, io volevo solo dire che io sono per Trump. Non mi piacciono nessun dei due, perché sì, il Biden è uno molle come un fico e Trump è un po' troppo esagerato. Comunque io appoggio Trump per una ragione molto semplice, che lui ha sempre tutto un pro Israele, che a me sembra più che giusto, e questo mi ha fatto tanto piacere, perché Obama, se mi permettete, Israele da bravo musulmano, che con il dica lui. Ma no Maria, ma quella è una fregnaccia, lo sa anche lei, cioè è una bugia quella storia. Su Obama musulmano, non si è mai presentato in Israele finché non è morto Perez, questo non mi sta bene. Va bene. Quindi, okay, no, il punto è chiaro, per il sostegno ad Israele. Davide da Brescia, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto massima stima e piena condivisione con l'analisi fatta dalla senatrice Santanchè. Il discorso è molto più semplice: se non ci fosse stato il Covid, oggi come oggi ci saremmo trovati di nuovo due grandi fuochi come Cina e Stati Uniti d'America, il cui PIL è l'unico a crescere di parecchi punti percentuali ogni anno rispetto al resto del mondo. Oggi come oggi sicuramente non avremmo avuto una politica, una campagna elettorale incentrata solo ed esclusivamente sul Covid, e sicuramente oggi come oggi l'America dei dimenticati, l'America First di Trump, sarebbe stata sicuramente molto più vittoriosa rispetto a quanto già non lo sia, perché comunque l'America di Trump sta vincendo, e sta vincendo anche a favore dell'Europa, sta vincendo a favore della tutela di tutti quei principi occidentali che ci devono contraddistinguere per non farci mettere i piedi in testa dalla Cina, che già sta mettendo i piedi in testa all'Africa, sì, e sta già colonizzando l'Africa. Davide, chiarissimo il suo punto. Vede Sensi, abbiamo uno zoccolo duro di trampiani tra i nostri ascoltatori che intervengono. Qualche ascoltatore dice devi lasciar finire le persone, probabilmente si riferisce a Maria, però la dovevo interrompere perché quella storia di Obama musulmano è notoriamente una fake news e quindi quell'elemento lo dovevamo togliere, però il tema del sostegno ad Israele lo abbiamo lasciato naturalmente. Che campagna elettorale è stata, Sensi? Ma è stata una campagna elettorale ovviamente condizionata dal Covid, anzi determinata, definita dal Covid, anche nella simbologia, no? Gran parte del messaggio di Biden era indossate la maschera, e gran parte della campagna di Trump è stata grandissime manifestazioni di gente, come si dice adesso, assembrata. Quindi il Covid è stato il vero spartiacque anche simbolico, comunicativo, di questa campagna elettorale. Poi quanto questo abbia contato nelle urne lo si vedrà ex post. Intanto adesso siamo ancora ai preliminari, cioè dobbiamo intanto determinare come sia andato il voto. Però è stata una campagna ovviamente molto polarizzata, molto divisiva. Da una parte Biden ha cercato di giocare la parte della unità, della decency, come si dice, della dignità, e anche, se vogliamo, del ritorno alla normalità. Gran parte della campagna di Biden è stata quasi una campagna nostalgica, come a dire, è successo questo evento, è caduto questo meteorite 4 anni fa, adesso torniamo alla normalità, torniamo al passato ordinario. La campagna di Trump è stata Trump. Sì. All'ennesima potenza, e basta vedere appunto la conferenza stampa, la dichiarazione appena fatta. Era Trump in purezza, diciamo. No? Trump in purezza non è male. Paolo da Padova, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Prego. Innanzitutto, se come sembra, visti un pochino lo spoglio dei voti, Trump andrà a vincere, ma questo è tutto da vedere. Si dimostrerebbe ancora una volta come in realtà gli Stati Uniti siano un paese che favoriscono sostanzialmente la figura del leader, che sia Bush, che sia Obama o che sia Trump. Una leadership forte è molto apprezzata da parte della popolazione. Sì. Ma quello che volevo chiedere io, volevo rivolgere questa domanda a voi, com'è possibile secondo voi che ci sia una discrepanza sempre così forte tra i sondaggi e poi effettivamente i voti? Se guardiamo per esempio la Florida, il Michigan o altri stati come il Wisconsin, insomma i sondaggi davano come favorito e anche in buona misura Biden, mentre oggi ci svegliamo e vediamo che in realtà questi stati stiano, o il Pennsylvania, stiano andando a Trump anche in maniera abbastanza sostanziosa. Sì, sì, pensate allora che sia un voltafaccia degli elettori oppure che questi sondaggi siano fatti male? Allora Paolo, innanzitutto la ringrazio per la domanda. In secondo luogo le dico che in realtà non lo sappiamo ancora su Michigan, Wisconsin e Pennsylvania, perché c'è tutto il voto postale, almeno in Pennsylvania, da contare, e il voto postale dovrebbe favorire i democratici, quindi effettivamente non lo sappiamo. Però il tema di come misurare il consenso elettorale prima delle elezioni, Santanché, è un tema che avete tutti e che vivete tutti più o meno quotidianamente, e non so se ci sia su questo fronte, la butto là perché poi lei, insomma, la politica nel centrodestra la vive da qualche anno, quello che qualcuno ricorderà come l'effetto Berlusconi, qualcuno che magari non lo vuole dire pubblicamente, non lo vuole dire nemmeno al sondaggista che vota per Silvio Berlusconi allora e per Trump adesso, e poi in realtà poi quando va nell'urna quello segna e quello scrive. Che dice? Assolutamente, io ritengo che saranno stati moltissimi americani che non hanno detto che avrebbero votato Trump e poi l'hanno votato, questo ne sono assolutamente certa. I sondaggisti americani ci hanno abituato insomma a prendere dei granchi pazzeschi, da Clinton, io mi ricordo, era porta a porta la notte delle elezioni americane, e davano tutti per, cioè che era ormai presidente degli Stati Uniti da Clinton, no? Era una cosa, e mi ricordo anche, devo dire, di imbarazzo di tantissimi giornalisti, che quando ormai era evidente che Trump aveva vinto, cioè non gli veniva fuori, è stato un colpo pazzesco, perché non lo volevano, c'è ancora, no, aspettiamo, ma non è detto ancora, mancano dei voti, quando invece insomma la vittoria di Trump si stava delineando. Quindi sa, in Italia c'è anche molta pruderia a dire che Trump ha vinto, e Tami Taccia dicendo anche che insomma Biden è frutto del Covid, perché senza Covid di chi avremmo parlato? Un pezzo. Ma siccome lei sì. ha fatto un paragone, ridendo, scherzando, con le elezioni regionali, no? Quando sì, io sì, avevo detto che era un po' una battuta, no? Se mi consente, però una battuta che mi ha fatto riflettere su una cosa. In Italia, durante il Covid, perché dobbiamo dire che queste elezioni col Covid sono un po' sui generis, non, cioè, hanno non, c'è, cambiato, non c'è il minimo no? dubbio, non c'è il minimo ecco. dubbio. Però se facciamo una riflessione, visto che lei mi ha portato su questa strada con la sua battuta, hanno vinto tutti i governatori uscenti. Sì, è quello che abbiamo detto, quelli che hanno gestito, quelli che hanno, sì, hanno vinto i governatori uscenti, quelli che hanno gestito esattamente l'emergenza Covid. Allora, grazie a Daniela Santanchè per essere stata con noi, grazie a Filippo Sensi, Daniela Santanchè, Fratelli d'Italia, Filippo Sensi del Partito Democratico. Metteteci in questa confusione, sondaggi, giornalisti, eccetera, eccetera, anche il fatto che noi tendiamo a guardare questa cosa con gli occhiali di chi pensa che sia un voto diretto per il presidente, mentre invece, come vi abbiamo raccontato infinitamente nel corso di questi giorni, l'elezione americana è di fatto un'elezione indiretta, per cui dipende da come va ogni singolo stato, e quindi anche se vinci, anche se hai la maggioranza dei voti, non è detto che tu vinca le elezioni. Grazie a Filippo Sensi, Daniela Santanchè, grazie a Peter Besca per regia, Alessandro Marcotulli in assistenza in redazione. Ci sentiamo domani alle 6:30, ciao.